la prostata, per curarla bisogna trombare. Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Viva la Rai, se starai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa giusta è con la Rai. È sempre festa, viva la Rai, coi capoccioni e gli operai. Servizio pubblico 3 minuti, diritto di cronaca 3 minuti, mettili, per favore, datemi una mano, sì o no? Mi date una mano, sì o no? Io vengo qua, allora, coprite quella telecamera lì, copri quella telecamera, dai, coprila. Signora, apra quella cosa, la tieni aperta così. Ammarai, non ti abbandona mai. Continua il delirio di Grillo, basta, ci siamo rotti i coglioni, ci siamo rotti i coglioni con questo Grillo che ha un'ossessione, quella dell'informazione, non rompesse le palle, ha preso il 25%, un terzo dei voti, un quarto dei voti, senza andare in televisione, anzi con le televisioni che lo cercavano e mandavano in onda i suoi comizi, non rompa le palle, non c'è nessun pregiudizio nei suoi confronti in nessuna televisione in Italia, se lo metta in testa, nessun pregiudizio. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Va bene, puoi andare, chiudere un attimo, vieni qua a destra, mandateli qui a destra, venite, caro cameraman, scusa, non ce l'ho con te, vai un po' di qua a destra, vai a destra, vai, vai a destra, vai, grazie, vai a destra, vai, che anche tu ti devi assumere qualche responsabilità, non è che poi sei il tuo lavoro, cazzo, è per tutti il nostro lavoro, capisci? Non è che puoi dire, il mio lavoro ti inquadro, vaffanculo, vai, vai, vai. Guarda, stai guardando, tirali sul tempo. Lo posso dire, David, con questi ebeti che dicono fuori, fuori, fuori, buffoni, buffoni, senza capire nulla lì, no? Ebeti là sotto, ebeti, no? Schiavi. Lo puoi dire se non che tu sei tra quelli perché lo hai votato. No, ma non rompere, ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Il tuo voto, non voglio urlare perché sennò distorce l'audio e tu non ti intendi di radio, ma... quindi voglio ma cosa c'entra? Non c'entra niente, chi tu ho votato? Tu hai contribuito a rafforzare la figura di quel mangiafuoco, tu lo hai reso potente con il tuo voto, tu lo hai mandato su quel palco, tu e quelle migliaia di persone che lo hanno ci andava lo stesso sul e palco. Applaudito, ci andava lo stesso sul e palco. Ora fai la vergine. Ma non faccio la vergine. Che scopre oggi chi è Grillo. Senti, ragazzino, ti devi vergognare, no, per primo. Ragazzino, per primo. Ragazzino, io ti devi vergognare, amico mio, amico per mio. Primo. Io chiudiamo qui, ci risentiamo, vabbè, domani. Adesso, ma stai zitto. Ok, hai fatto il teatrino, stai zitto. Ecco, bravo. Stai zitto. Chi è questo, bravo, idiota solito? È Riccardo, l'annunziata busta paga dell'Eni, partono le querele. Beh, ha fatto certo. Avete visto? Questa l'annunziata che fa la grande giornalista era sulla busta paga dell'Eni fino a ieri e l'Eni la pagava, sai come? E si fanno pagare alla luce del sole. E quando era direttrice lei del TG3, lei era sulla busta paga dell'Eni e Scarroni nella sua relazione, quando un azionista dell'Eni gli chiede: ma lei i soldi nostri, gli azionisti, a chi li dà? E lui dice: abbiamo dato 150.000 euro per una performance teatrale alla signora annunziata, per fare una rappresentazione a Milano in una pièce che si chiamava Cane Nero. Allora, ovviamente è tutto da verificare, probabilmente l'annunziata è furibonda, Cosa significa? Che ci sono dei giornalisti che fanno delle prestazioni professionali. No, delle conducono delle convention. Delle convention. Questo è normalissimo, l'ho fatto anch'io un sacco di volte. Sì. Grillo si deve vergognare. Lo dice, l'annunziata. Stai tranquillo, c'è tempo. Deve portare via tutto a Grillo. Stai tranquillo. Deve chiedere 500.000 euro di danni a Grillo. Stai tranquillo, c'è tempo. Stai tranquillo. Ha ragione l'annunziata. Stai tranquillo, c'è tempo. Subito, io faccio partire la querela anch'io adesso, subito. Ma che c'entri tu? No, la voglio far partire anch'io, querela preventiva. Greco e Agorà, il mio amico Gerardo Greco, ma perché? Ma caro Grillo, ma che t'ha fatto? È un bravo ragazzo, è un bravissimo professionista, uno che fa il suo mestiere, ma perché te la devi prendere con Agorà? Poi se la piglia con Agorà perché cercano i dissidenti. Ma scusa, ma non ci rompere i coglioni, caro Grillo. Noi andiamo a cercare, andiamo a sfrugugliare dove c'è la notizia. Cioè, adesso, pochi minuti fa, una senatrice dei 5 Stelle, una che si chiama Castelli, dice che ai giornalisti bisogna dargli l'olio di ricino. L'ha detto al Senato, diamogli l'olio di ricino, ma basta con queste cose, basta! Vediamo questi conduttori dove sono. Il signor, come si chiamava quello di prima? Vianello, che adesso era di Agorà, adesso c'è questo qui che sembra che gira, che fa e tutto e prende tutti i dissidenti. Sai che vanno nel bar sotto casa mia? I giornalisti vanno dove abito e vanno a vedere, c'è qualcuno che odia Grillo. Ve l'ho detto prima, fanno vedere e prima o poi uno che acquisto sui coglioni lo trovano. Ma vorrei vedere uno di voi nel vostro condominio. Se non si mettessero d'accordo. Oh, poi ritorna la storia di Vedrò. Vianello, direttore di rete che perde milioni e membro di Vedrò. Tu non parlare perché sei in conflitto di interessi, In realtà sono anch'io in conflitto di interessi perché sono amico di Andrea. Ma il punto è questo. Ma perché non si fa gli affari suoi, Grillo? Io non riesco a capire. Perché si deve occupare di cose assurde, di cose che non servono a niente? Allora, proponesse la privatizzazione di due reti della Rai, facesse una battaglia politica, non si occupasse del direttore di Rai 3. Bene, vediamo un po'. Vianello che è diventato il direttore di Rai 3. Direttore di Rai 3, quindi emittente pubblica che perde, vi ripeto, 200 milioni dei nostri soldi. Lui è diventato un direttore. Bene, un nostro parlamentare l'altro giorno si è alzato in Parlamento e ha detto: cari signori, ci sono 7 ministri, più tutta questa gente qua tipo Vianello e altri giornalisti, ora vi faccio l'elenco, che sono dentro una fondazione che si chiama Vedrò. Vedrò, ci sono le fondazioni che sono sostenute sia economicamente sia emblematicamente, ma penso da chi? Da Leni. Vabbè, è ufficiale che Grillo non capisce una sega, perché l'abbiamo già detto da giorni, non c'entra niente, siamo andati, un gruppo di persone è andato semplicemente a fare il suo mestiere, nessuno è dipendente delle aziende multinazionali, nessuno è schiavo dell'Eni o cose di questo tipo. Io me ne fotto, Vianello se ne fotto, altre persone se ne fottono, la sua senatrice Grillo, Natale Nugnes, ha fatto una figura di merda qui alla Zanzara, perché mi ha dovuto chiedere scusa, perché ha detto che non era giusto mettere i giornalisti, la gente che andava lì a fare il suo mestiere, dentro una lista di proscrizione come lobbisti al soldo di Letta o di non so che cosa. E poi bisogna distinguere, ci sono aziende che fanno degli sponsor, poi ci sono aziende che cercano marchette, ma quello è un altro discorso. Va bene, intanto lo sai chi ti ho scovato, caro Parenzo? Il numero 2 dell'esercito di Silvio, dell'esercito della libertà. Oh mamma. Perché mamma? Che c'è? Ecco, mancava quello, mancava l'esercito lì, l'esercito di Silvio oggi per aprire la puntata di questo martedì, mancava l'esercito di Silvio. Alessandro Bertoldi è molto giovane, ha 19 anni, mi stupisce che uno di 19 anni si iscriva direttamente all'esercito di Silvio, anzi diventi una sorta di numero 2. Che significa numero 2, Bertoldi? Buonasera. Buonasera. Ma numero 2 l'avete detto voi, comunque, un sostenitore come tutti gli altri, partecipato all'idea, diciamo così. Ma lei è anche, diciamo, un ufficiale, perché è commissario del provinciale del PDL a Bolzano a 19 anni, eh? Ma quale? Sì. Diciamo così. Come diciamo così? È commissario provinciale del PDL a Bolzano, sì o no? No, certo, sì, sono un ufficiale, non è una gerarchia militare la nostra, ma no, un ufficiale intendo è uno del PDL, insomma, non è, sì, certo. In questo senso. Parenzo, ti interessa questo personaggio? No, siamo Bertoldi? Guarda, dire che mi interessa meno di zero è poco, ma non è mancanza di rispetto per lui, è proprio l'idea di fare la milizia berlusconiana. A quanti siamo? A quante migliaia di persone siamo arrivati, siamo Bertoldi? No, oltre 17.000. 17.000, capito Parenzo? 17.000 di cosa? Ma 17.000 persone che fanno cosa? che fanno niente, semplicemente che si sostengono questa causa. Quale causa? Di cosa sta parlando? Andate a fare l'amore, passi una serata con la sua fidanzata, la tenga per mano, la abbracci. Perché deve fare la milizia di Berlusconi? Perché? Perché ci sono quelli come lei, Parenzo. Hai capito? Scusi adesso, però io vado ai matti quando sento questo. Ha una vita lei? Certo, come tutti. Ha una sessualità normale? Certo. Le piace leggere, guardare un libro, guardare la televisione? Sì, sì, sì. E allora, se ha una vita normale, va di corpo una volta al giorno? Certo. Quando beve l'acqua, la pipì la fa regolarmente, i reni funzionano? Sì, sì, sì, sì. E allora perché deve fare la milizia di... L'esercito, l'esercito. L'esercito, perché? Scusi. Ma io l'ho spiegato, perché ci sono quelli come lei che sostengono non vada fatta e non vada difesa una persona che ha preso milioni di voti. Scusi Bertoldi, però c'è la polizia. Dovrebbe iscriversi anche lei, Parenzo. No, Parenzo è molto difficile se scrive l'esercito di Silvio. Ma non mi iscrivo a nessuna milizia. Persino io che non sono, come dire, pregiudizialmente contro la Berlusconi, avrei un po' di difficoltà a iscrivermi. Scusi, signor Bertoldi, vorrei capire una cosa, ma dite che siete arrivati a 17.000, ma volete proteggere, come ci ha detto l'esimio Volpe Pasini l'altro giorno, Silvio, durante le manifestazioni, anche menando le mani, sì o no? Ma no, assolutamente. Eh? Facciamo un supporto anche organizzativo, lo faremo un supporto anche organizzativo a queste manifestazioni, come abbiamo fatto spesso, insomma, adesso più organizzato. Ma più organizzato. Dunque, se ci sono i contestatori, che fate? Menate le mani o no? Qualche schiaffo lo date? Ma no, semplicemente potremmo limitarci a bloccarli, magari. A bloccarli come? Fermandoli semplicemente, se ci fosse qualche aggressione, ma l'età media... La media, tranne eccezioni, non è quella, diciamo, non è la mia e non è neanche quella di Furlan. Sappiamo che... Scusi Bertoldi, però c'è la polizia per queste cose. Perché volete sostituirvi alla polizia? Anche lei pensa che non faccia nulla la polizia durante i comizi? No, io credo la polizia faccia quello che possa fare. E anzi, dirò di più, anche la polizia... è in serie difficoltà nell'intervenire proprio perché la polizia è diventata... Guardi, è diventata che cosa? Hanno paura, che fanno? Certo che hanno paura, perché quando ci sono dei processi dove appunto vengono incolpati di aver aggredito o di aver abusato del loro potere, si sa una parte della magistratura chi dà ragione. Ah, lei dice intimoriti dalle accuse che ogni tanto si fanno nei confronti dei poliziotti, hanno paura ad agire, no? Parenzo, hai capito la teoria qual è? No, io ho capito che, ad esempio, vorrei sapere cosa pensa il vice comandante dell'esercito di Silvio. Sì. Come intende difendere Berlusconi dalla sentenza Unipol BNL, ad esempio, di oggi, anziché fare la difesa di Berlusconi fisicamente? Come lo si difende il cavaliere che ascoltò la telefonata di Fassino e consorte e, secondo i giudici, la usò politicamente? Che cosa c'è da difendere qui? Cosa c'è da difendere, caro il mio milizia? C'è da difenderlo dall'accanimento, che non sta in un processo ma in... Sì. Ma cosa farebbe lei adesso a questi giudici? Vabbè, quello d'accordo, quello politicamente. Non mi molesti il moschito, non mi molesti il moschito, non mi molesti il moschito, why don't you go on? Mio amico Tommaso ed Eroclite, tu mi dirai, Parenzo, chi è, poi te lo spiegherò un giorno. Ed Eroclite, il mio amico Tommaso, il mio amico Tommaso ha scritto oggi: ero dal barbiere e uno dei clienti ha esclamato: senza presidenzialismo non riesco ad arrivare alla fine del mese. L'ho trovata una cosa meravigliosa. Ma davvero questa senatrice dei 5 Stelle ha detto che ai giornalisti faziosi bisogna dare l'olio di ricino, e l'ho detto al Senato? Vabbè, ma Grillo nei comizi non è che dice qualcosa di diverso, diciamo la verità, non dice nulla di diverso. Innanzitutto se la prende con Lupi, che sarebbe uguale secondo lui alla figlia di Fantozzi. Effettivamente, adesso, con tutto l'affetto per Lupi eccetera, qualche vaga rassomiglianza, poi ha dei picchi di genio, di comicità, Grillo. Lupi uguale alla figlia di Fantozzi, geniale. ministro delle infrastrutture Lupi, quello che è uguale alla figlia di Fantozzi. Poi... Poi chiama Formigli, lo chiama Vermigli, lavori per Cairo, cioè con Berlusconi. Facciamo uno scherzo a quelli lì, dai. No, no, ma dovete metterlo davanti alla telecamera, forse non... Allora, tu scendi. Scendete. Vermigli, perché non fai un servizio su qual è, cos'è la tua televisione, chi l'ha comprata? L'ha comprata un certo Cairo che lavorava a Publitalia, quindi stai lavorando per Berlusconi. Se la tieni girata dall'altra parte, ora capite perché il sistema di informazione italiano è al 57esimo posto nella graduatoria mondiale. E siamo qui con Alessandro Bertoldi, che è un pidiellino di Bolzano, molto giovane, pupillo, dicono, di Micaela Biancofiore. E caro Bertoldi, numero 2, Parenzo dell'esercito di Berlusconi, dell'esercito di Silvio. C'è ancora? Sì, c'è ancora Parenzo. Non voglio più sentirlo, ma... Perché non vuoi più sentirlo? Può abbassare, Parenzo. Perché? Che c'ha? La voce gli dà fastidio? Sì, sì, mi innervosisce proprio. Ah, la voce ti innervosisce? Sì, sì. Come ma mai? Poi, tra l'altro, mi deve ancora una cena, lui non se lo ricorderà, ma... Che ha fatto? Deve cena a tutti. Che ha combinato? Ma niente, eravamo a Merano qualche tempo fa con Oliviero Toscani e se n'è andato a cena senza di noi dopo averci invitato e dopo non averci fatto intervenire in televisione. Cioè, le hai dato la sola a Parenzo? Vabbè, adesso ho capito chi è il compagno, il personaggio. L'ho invitato alla trasmissione. Vabbè, non ce ne frega niente. No, per lei scusi un attimo, Bertoldi, lei che cosa farebbe per Berlusconi? Beh, dipende. Ma sarebbe disposto a fare tutto per Berlusconi oppure no? Ma sì, certo. Tutto che vuol dire? Difenderlo come sto facendo. Beh, difenderlo anche fisicamente, questo. Ma sì, certo, anche fisicamente. Cioè, non lo so, mi faccia un esempio. Berlusconi è un simbolo per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda. E quindi è un simbolo di un'idea, va difeso anche fisicamente. Ma che vuol dire difenderlo fisicamente? Mi spieghi? Vuol dire semplicemente evitare che venga attaccato fisicamente. Ma non c'è nessuno che lo vuole attaccare, poi ci pensa la polizia a queste cose. Ci sono le sue guardie del corpo private e non... Beh, ma abbiamo visto, insomma, a Brescia, abbiamo visto in altre situazioni... Non basta. Mi faccia capire, lei mi sta dicendo che se ci fosse stato prima questo esercito della libertà, Tartaglia, quello che scagliò contro di lui quel gesto vergognoso e assassino che scagliò quella statuetta, se ci fosse stato l'esercito vostro non sarebbe accaduto? No, non sto dicendo questo. Senta, perché lei vuole togliere una precauzione in più? Perché vuole togliere la scorta a Saviano? Ma no, non gliela voglio togliere. Ma come no? L'ha detto lei, adesso si tira indietro come un politico qualsiasi. No, io ho detto diversamente, che Saviano, se non riconosce in tutto e per tutto quelli che sono i meriti delle forze dell'ordine, ma chi li riconosce, allora, tranquillamente, perché non li riconosce? Perché a Trento non li ha riconosciuti. A Trento non li ha riconosciuti perché? Ma perché Trento ha detto che c'è tra il centro del mondo. Trento è un posto bellissimo, ma è Trento, a Trento non li ha riconosciuti. Ha detto questo, ma perché? Lui che ha detto? Ha detto che c'è traffico di droga al confine. No, vabbè. No, lui ha detto che le forze dell'ordine al nord negano l'esistenza della mafia e della droga pur arrestando mafiosi e spacciatori. Questo era il... Il numero 2 come si può definire? Lei che è un colonnello, Bertoldi, che è? Ma no, un militante. Un militante. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Ma Parenzo c'è ancora? Non voglio più sentirlo, ma... Si può abbassare, Parenzo? Sì, mi innervosisce proprio. Ma poi, tra l'altro, mi deve ancora una cena, lui non se lo ricorderà, ma... Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. E se sentiamola, va, questa deputata Castelli, questa deputata del Movimento 5 Stelle che parla di olio di ricino. Sentiamola in aula, caro Parenzo, perché prima o poi a questa follia, questo accanimento nei confronti dei giornalisti, della televisione, davvero mi scoccia, lo ripeto per il secondo giorno di seguito, fare questo discorso corporativo, ma lo direi anche se parlasse ai meccanici, non so come dire, no, lo direi anche se parlasse agli avvocati, se parlasse ai notai, questo accanimento, questa fissazione. Ma pensate a fare un po' di politica, se volete agire sull'informazione, fate le vostre proposte di legge sulla privatizzazione della RAI, portatele avanti, incatenatevi davanti al Parlamento, ma non rompeteci i coglioni. Il maggior quotidiano piemontese, nello stesso giorno in cui annunciava l'arrivo del ministro degli interni per decidere l'apertura forzata e forzosa del cantiere della Maddalena, commentava nelle pagine a fianco una grande operazione dei carabinieri del comando di Torino, sotto il titolo: le mafie minacciano anche le grandi opere. Beh, io lo trovo davvero buffo. Io a questi attori sì che darei l'olio di ricino. Lei dice ovviamente che si riferisce ai mafiosi, ma non mi pare così, non mi pare così evidente. Guarda, dobbiamo tutti quanti ringraziare Giuseppe Cruciani. Oddio, per di nuovo aver questa mandato in Parlamento queste persone qui. Grazie Cruciani, magnifico conducatore della Zanzara. Grazie, 800 24 00 24, telefonate. Ma stai zitto, ok, hai fatto il teatrino, stai zitto, ecco. Stai zitto. No, Riccardo è un cretino comunque. Buon anno. No, è buon anno no, good year no. È un deputato della Lega, come no, lo chiami? No, non è un deputato della Lega, good è year. Buon anno. No, è un deputato della Lega. Sì, ma non è deputato, onorevole, è buon anno, cioè non è buon anno, good year. È uno della Lega che fa delle sparate grossissime tutte Vendola, le volte. Senti questa, Vendola deve pensare più a Taranto che alle adozioni gay. Vendola magari, oltre a fare governatore della Puglia, invece di pensare molto più spesso all'adozione dei gay, magari pensi di più all'Ilva di Taranto che è meglio. Buon anno, ha concluso il tempo e la prego di attenersi alla materia, grazie. Beh, difatti lo, no, mi attengo. La prego. Mi attengo alla materia. No, pensi non si sta attenendo. Onorevole Bonanno, la prego di concludere, grazie. Giacchetti che lo rimprovera lì, si attenga alla materia, buon anno, good year come lo chiama Parenzo. Sentiamo i titoli del TG3, poi sentirete. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il governo ha deciso il commissariamento per 36 mesi dell'Ilva di Taranto. Bondi sarà il risanatore. Il decreto servirà a gestire l'azienda attuando l'AIA. Più di 3 milioni di precari in Italia per 800 euro al mese. Alla Indesit oltre 1.400 esuberi. Squinzi, basta polemica nel governo. Agì per danneggiare l'avversario, così le motivazioni della sentenza Unipol in cui Berlusconi è stato condannato a un anno. Ghedini, ecco il pregiudizio dei giudici. Riunita la direzione dei democratici, in primo piano la nuova segreteria e le regole del congresso, ma anche lo schema presidenziale che divide il partito. Si allunga la lista dei giornalisti nel mirino di Grillo e sul blog compare anche un sondaggio su reti, TG e conduttori considerati più faziosi. In Turchia aumenta l'adesione allo sciopero generale contro la repressione delle proteste di piazza. Il governo cerca di placare la tensione. E a Piacenza un bimbo dimenticato in auto dal padre muore di caldo a 2 anni. Il piccolo doveva essere accompagnato all'asilo. Nella vecchia fattoria, ia ia o, dove c'è lo zio Tobia, ia ia o, c'è un bel cortile, un orticello, un gran recinto col cancello, c'è vicino la ferrovia, ia ia o. La capra ce l'ha. Anche la capra c'ha più latte. Beh, cari ascoltatori, si può finire la propria avventura politica in tanti modi, eh. si può finire nel discredito, si può finire nella menzogna, si può finire in carcere, si può finire semplicemente ritirandosi in Italia, so che è abbastanza raro. E però Di Pietro ha deciso di finire, in realtà ovviamente non, secondo lui non ha finito, mostrandoci come passa il suo tempo tra gli orti e le campagne della sua regione. Era Di Pietro quello là, Parenzo? Era Di Pietro, No. Sì, era Di Pietro con chi era? Con le caprette, con i maiali, con i maiali, sentiamolo, vi prego. La capra ce l'ha. Anche la capra c'ha più latte. Maiale, iale, iale, c'è un bel gatto, gatto, gatto, l'asinetto. Ma c'è qualcos'altro di questa specie di zoo di Pietresco? Capra. Morto coniglio. È morta la mamma 2 giorni fa, però purtroppo i conigli sono molto delicati. Poi se li mangia Di Pietro. Il coniglio ha una sua funzione, la gallina fa le uova, il pollo ci si fa le fettine di pollo, il coniglio si fa al forno. Ia ia o, dove c'è lo zio Tofia, ia ia o, c'è un bel cortile. A proposito di pollaio, la Lega è diventata un inferno, caro Parenzo. È diventata un inferno dopo l'intervista di oggi su Repubblica di Bossi. Maroni è solo un traditore, a me non mi ammazza nessuno e ora mi riprendo la Lega. Vi dico solo una frase che poi è il titolo, parla anche la moglie Emanuela Marroni: le scuse e le lacrime a Bergamo lo scorso anno per i danni provocati dai figli. No, quella umiliazione è stata troppo, un'ingiustizia troppo grande. Ma su Maroni ne dice di tutti i colori, non ha i nostri ideali. Quando uno tradisce una volta poi tradisce per sempre, ha cancellato la Padania, vuole tornare a fare il segretario, eccetera eccetera. Poi annuncia: ci sarà una lotta di liberazione per il nord. Sarà la lotta di liberazione che libererà il nord. Il nord non può andare avanti a sostenere un paese intero che comunque è destinato a fallire. La smetta Maroni di espellere la gente. Se la sente dare un consiglio a Maroni? È implicito, no? Deve smettere di espellere la gente. Perché la Lega non l'ha fatta, l'ha fatto proprio con la gente che lui continua a espellere. Bene, siamo qui 800 24 00 24. Giuseppe da Lecce, buonasera. Ah, finalmente. Allora, andiamo. Buonasera. Andiamo? Mi sente? Sì, sì, veloce. Allora, sì, buonasera, dottore. Allora, niente, io volevo così... Ma niente cosa, ma se lei chiama, perché dice niente? Vabbè, è un modo di dire. Insomma. È un modo di dire, si affretti, okay. Su. Sì, io credo che, insomma, Bossi, Di Pietro, insomma, ci prendono... Te l'ho preso per il culo fondamentalmente, perché quello che se n'è andato a fare il contadino, quell'altro si vuole riprendere la padania, le lotte intestinali, là, eccetera, sì, eccetera. Però io volevo introdurre non questi argomenti, ma altri argomenti. Vabbè, Giuseppe, arrivederci. Franco da Roma, buonasera. Che cavolo. Franco, su. Franco, buonasera. Dica. Luciani, io sono uno di quelli che rompe i coglioni. Sì, errore, li rompa. Ecco, posso? Sì, sì, prego. Grazie. Allora, intanto non la chiamare la zanzara. Sì, ma abbassi quella maledetta radio che ha dietro lei, Franco. Abbassi quella radio. Non c'è bisogno di sentirsi. Allora? Intanto la chiamerei la trasmissione del Casseccio. Mi ricordate tanto Biscardi? Sì. Solo che Biscardi, quando è andato davanti ai giudici, ha detto che stava cazzeggiando, di non era da prendere sul serio. Ho l'impressione che anche voi non siete da prendere sul serio, perché io ho notato, caro Cruciani, ma ci prenda come vuole, non è un problema. Dici sempre il contrario di quello che uno dice. Sì. Il giorno dopo, ti rimangi quello che ha detto il giorno avanti. Vabbè. Poi tutto questo fumo che stanno alzando i giornalisti, sì, vuol fumo, dire che sì, c'è qualcosa che brucia. Ma che cosa? Ma non è fumo bianco, ma fumo su cosa? Nero dei copertoni. Ma fumo su cosa, Franco? Chi è che sta alzando il fumo? Mi spieghi? Cos'è? Chi è che sta alzando il fumo? Tutte le sere le fa specie Parenzo, che lui si dichiara di sinistra. Grillo, ti ricordi, io ho chiamato tempo fa, ti ricordi quando Berlusconi aveva l'uveite? Io ti ho detto che era quel signore che c'era lui, te lo ricordi? Sì, allora? Il giorno dopo, 3-4 giorni dopo, quando si era, diciamo, chiusa la partita del tribunale, si è fatta girare tutte le televisioni. Sì. È vero o no? Ma dunque, dove vuole arrivare, Franco? Dove vuole arrivare? Me lo spiega. non arrivo da nessuna parte, sto dicendo che è una trasmissione di casseggio. Va bene, d'accordo. Claudio, non siete seri per niente. Non siamo seri, ma noi non vogliamo essere seri. Ivan da Bergamo, buonasera. Buonasera. Dica. Voglio salutare il mio amico Alessandro che ci sta ascoltando. Ma chi se ne frega, Ivan? Vabbè. No, vabbè. Ma poi... chi se ne frega? Ma, lei, ma faccia, ma queste, scusi, cose a radio. Radio dedica. A radio BB e non ci rompa le scatole, su, dai. Volevo dove voglio. Il mio amico Alessandro. Ma chi se ne frega di Alessandro? Alessandro che ci ascolta, ciao Ale. Va ciao. Bene, d'accordo, Ivan, ha fatto scusate, la sua. Ah no, poi dovevo dirle una cosa. Ha fatto la sua comparsata, la sua smargiassata ridicola, su. Siamo attori come lei. Ma lei è una persona patetica. Vada avanti. Sì, sì, ma se lo dice da solo, infatti. È persona... diventato l'onnipotente. No, ma io non sono onnipotente, è lei che è patetico. No, come no? Cazzo buono, capone. Lei è una persona patetica. Ha ragione. Una persona patetica, ridicola, che perde il suo tempo a prendere il telefono e a chiamare la radio cercando di fare il cretino. Ma lei mi riempie il tempo a quelli come noi. Cioè, sì, ma lei io riempio il tempo. Punto che lei è lì apposta. Sì, ma a me mi pagano, a lei no, quello è il punto. No, a me mi pagano per quello che faccio. No, lei non la pagano per chiamare qua, capito? Perde solo tempo. Certo, perde... appunto, invece lei la pagano per ascoltare. Ma io no, per ascoltare, guarda, se io voglio la mando a fare in culo in due secondi non mi succede nulla, capito? Sì, sì, ma io la mando prima, vaffanculo. Sì, ma lei vada, non c'è problema. Vada, vada. Adesso abbassi, così ha fatto la sua smargiassata pomeridiana. Abbassi, abbassi il telefono, bravo, bravo cretino, bravo, bravo. Che genio questo qua, Ivan, un genio assoluto, un poveraccio. Simone da Napoli. Sì, buonasera Crociani. Dica. Io volevo fare una domanda, volevo capire come fa lei ad affermare sì. che le TV in Italia non ce l'hanno con Grillo. No, non ce l'hanno assolutamente con Grillo, guardi, nella maniera più assoluta non ce l'hanno con Grillo, glielo posso assicurare. Ma guardi, può darsi anche che non ce l'abbiano con Grillo, però sicuramente ce l'hanno a favore dei poteri forti. Ma quali poteri forti? Ma quali poteri forti? Quali poteri forti? Ma a parte che bisogna distinguere, caro Simone, cioè, non è che uno può fare no, di tutta l'erba un fascio, come si dice, no? Per cui, bisogna fare accuse precise quando ci sono le accuse. Se le accuse sono quelle che ho sentito sull'annunziata e la partecipazione a un convegno dell'Eni, è una cosa patetica, cioè ridicola, cioè allora una cosa risibile. In Italia, parliamo delle televisioni. Parliamo sì. delle televisioni. Guardi, in Italia c'è Mediaset, che appartiene Mediaset. Sì, a Berlusconi, c'è la RAI sì. e ci sono i dirigenti. Ma che benissimo, sono ma non è un problema. Allora, se vogliamo parlare della privatizzazione della RAI, se vogliamo parlare di quante televisioni uno può possedere, possiamo parlarne tranquillamente. Ma secondo lei è una cosa normale, è una proposta politica quella che fa Grillo, o non è solamente una buffonata quella del microfono di legno? Quella è la rete televisiva più faziosa, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7 o Sky TG24, ma che cos'è? Dove stiamo? All'asilo, Mariuccia? Qual è il direttore di TG più fazioso? Cioè tutto questo lo fa Grillo, il capo di un movimento politico, lei si accorge della ridicolaggine di tutto ciò, no? Guardi, cioè non è un gioco, questo qua è un gioco. Ma io considero ridicolo Grillo. Ne sono consapevole. Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. Borsa. Sentite Veltroni che dà un consiglio a Renzi, Walter Veltroni. Secondo Veltroni non deve frequentare, non deve avere incontri con Briatore. Ma perché uno non può avere un incontro con Flavio Briatore, caro Veltroni? Io lo dico perché, come sapete, ho molta simpatia per le posizioni di Matteo. Insomma, in termini di diritti d'autore lui mi dovrebbe una certa quantità di soldi. Ma però quando io poi vedo Briatore non ci capiamo più. A parte che l'incontro sembra essere stato casuale, quello tra Briatore e Renzi, cioè Briatore si trovava a Firenze o una cosa di questo tipo, a meno da quello che ho letto. Poi in ogni caso non ci sarebbe nulla di male a incontrare un imprenditore italiano che fa investimenti anche all'estero. No, ma soprattutto dovrebbe dirlo anche alla signora Melandri, credo. Sì, questa è una vecchia questione. Briatore comunque, evidentemente questa frase di Veltroni lo ha mandata ai matti, perché su Twitter si è scatenato: caro Walter, dei nostri successi ne parlano anche in Cina, e dei tuoi? Una cosa incredibile. Questo Veltroni, tipo Melandri, dopo le sconfitte politiche non doveva andare in Africa? Sempre stipendiato da noi? Come lotta il suo creatore, come lotta. Se mi avesse incontrato prima, forse l'unità non sarebbe fallita. Quanti posti di lavoro ha creato Walter Veltroni? Siamo sopraffatti, forse Renzi comprende dove si muove il lavoro. Mamma mia, come lotta Flavio Briatore. Giovanni da Milano, buonasera Giovanni. Buonasera dottor Cruciani. Dica, la chiamavo solamente per dire, come già saprà. Sì. Siccome lei ha detto una sera che chi non le piace questa trasmissione di non ascoltarla più. Beh, è normale, ma questo vale per tutti, non è che vale solo per me. Mi lasciare parlare un attimino, due parole. Io non è che chiamo tutti i giorni la radio, è la prima volta in vita mia che chiamo la radio. Sì. Ascolto sempre, mi piaceva prima la sua trasmissione, mi piaceva come la conduceva, attualmente non mi piace più. Volevo informarla che sono uno dei tanti che non seguirà più la sua trasmissione. Bene, lei ha perso tempo, anche minuti per stare in onda, per chiamare e per dire questa cosa. Benissimo. Ma perché dice che ho perso tempo? Ma perché? Perso dice tempo, dice ha perso che dobbiamo tempo. Partecipare, dice che dobbiamo dire la nostra, però dice che ho perso tempo. Ma lei può fare quello che vuole, non ha capito, può fare quello che vuole. Ma non deve, c'è il massimo della libertà qui, c'è il massimo della libertà. Perché fa questi commenti allora, se c'è il massimo della libertà, questi commenti? Per fortuna posso fare i commenti, posso fare anche questi commenti. Lei è bravissimo, peccato che sta da una parte che vabbè, fa niente. Qual è la parte, scusi? Vabbè, da che parte sto? Gliel'hanno già detto in tanti. No, me lo dice. No, lei si sbaglia. Conduttore di una volta. No, non è vero, non mi sbaglio. Non da che parte sto? No, ma da che parte sto? Non ho capito. Non è più il conduttore di una volta, non è più il conduttore che faceva le trasmissioni, che piaceva a molta gente, attualmente non piace più. Ma lei, ma chi lo dice? Ma questo lo dice lei. No, lo dico io, ma questo lo dice lei. Le altre persone che ascoltano la radio, come io mi raffronto, dove dico, ma Cruciani è cambiato, non è più quella volta. Anche un linguaggio scurrile che ultimamente non so come mai sta usando questo. Non le piace? Le dà fastidio? Non le piace? Ascolti, che cosa succede? Non le piace? Non le piace? Non le piace? Prendendomi in giro. Io le sto dicendo il mio pensiero, lei dovrebbe accettarlo. Ma io lo accetto tranquillamente. Fare quello che mi prende in giro dicendomi, ma non ma le io piace. Lo accetto. Le sto dicendo appunto che ha un linguaggio scurrile che potrebbe farne a meno. Benissimo. Anche un grazie, grazie dei consigli. Mi sembra mia madre. Grazie dei consigli. Andiamo in provincia di Roma, Mario. Pronto? Sì, Mario, dica. Ma caro dottor Crociani e signor Parenzo, dottor Parenzo, io non lo so, ma voi registrate durante la serata no, parecchi, diciamo, rimproveri da parte di gente semplice, gente comune, che vi ascolta con tanta sincerità e cose varie, no? Ma è possibile mai basare una trasmissione per circa tre quarti d'ora per l'infezione sull'utero o su quello o quell'altro? L'ha detto Michael Douglas, mica l'ho detto io. Non ha capito. Dalle, buonasera. Sì, cercavo Don Bodon, per favore. Attende in linea, Grazie. Ferdinando? A domani, caro, grazie. Pronto? Portate per cortesia una goccia di prosecco intanto. Grazie. Pronto? Aspetta un attimo. E anche delle tartine per cortesia, subito. Vai tu. Sì, sì. Chi è che parla adesso? Pronto, Ferdinando. Chi è che parla adesso? Sono Mario, don Ferdinando, ciao. Chi è che parla? Sono Mario De Solesino, scusami. Mario qua. Sì, volevo farti i complimenti per sta roba del gay. Tutti. Beh, io so che Mario che ti scippi. Comunque, Garobù 5, la diesena del giornale, giornalistica, nai 5, vedi qui c'è poco, vuoi per diventare famosi, vedi? Dì al mattino, qua stamattina, una scuriale direttore, vedi? Intanto che sta che l'inseminio del cronista, anonimo, che è scritto quel titolo, che pare che sia mica sia gay. No, ma guarda. E non vedo nessuna offesa a Matteo. Tocco soltanto il peccato e non il peccatore. Perché no. Lei può di. No, ma non capisco. Già che ora si oggi Dio che ti, ti. Forse la parola. Forse la. Perché sei venuto mobile. Forse la il peso l'uovo. Le ultime due che ho udito. Ma guarda, me lo vedi i suoi geni che domani ti si la stanghea. Forse qui poteva saltarla. Ma tutto il resto, rispondo anche davanti ai tribunali da Roma. Anche per me. Certo. Vai. No, sì, dico che è un'altra lingua anche per me questa. Che... E gli uniti i giornalisti, anche voi che siete responsabili di questa cultura greca che hai fatto in Europa e nel mondo, che è un peccato contro, I giornalisti sei i primi responsabili della diffusione della cultura. E io ho detto tutti che voi. Sì. In particolare Cruciani di Radio 24, che è il primo che. Scatenato. No, vabbè. Ferdinando, don Ferdinando. Antenna 3. È meglio che intervistarmi quando sei qua. Non riesco più a stare dietro neanche io. Don Ferdinando, don Ferdinando. Fermano. Non vai via appena. Come non vai via? È il Papa ancora dito che devono essere politicamente scorretti. Se ora deve parlare e buttarsi fuori con oggi preti, non sembra paura chi ne mette in presunto. No, è partito, fermalo. Che ha fatto qui, posso io? Ecco una bella lettera e stamperò ancora qui e dire Matteo. No, ma non si ferma più. Anche adesso sono un guardia del giornalista del mattino, qua a Santa Margherita. Ferdinando! No, ascolta, don Ferdinando! Don Ferdinando! Don Ferdinando! Vabbè, abbassato. Questo era Don... Aspetta, è Don Ferdinando, devi tradurre però. Don Ferdinando Bodon, detto Don Ferdi, un cappellano dell'ospedale di Monselice, il quale ha mandato una lettera a un candidato omosessuale a sindaco del suo paese, Solesino, dicendo che rovini il nome del paese, ritirati, delle cose tremende sui gay, tu da chi sei stato creato? Da un uomo e un uomo, da una donna e una donna, oppure da una donna e un uomo? Eccetera, eccetera. Parenzo, che ha detto? Guarda, era molto difficile fare la traduzione simultanea. La sostanza è, il punto centrale è, se colpa, cioè è colpa anche dei giornalisti che diffondono, sarebbe, sì, la cultura omosessuale. Io a quel punto mi sono permesso di dire che in particolare se è il signor Cruciani, sì, questo l'avevo capito, letteralmente è il signor Cruciani, certo, che è il più grande diffusore di cultura gay, e mi ha detto che ti sia un mona, la parola mona si è sentita. Ma no, ma non era rivolto a me. Si è rivolto a te sicuro. Cruciani, che nomino so chi che sei, dice io non so chi sia, ma sei un mona. Sarebbe, sei un mona. Su questo io non posso dar torto al signor Ferdinando. Vabbè, dopo riproviamo. Claudio da Roma, sì, intanto. Claudio, sì, da Roma. Dica. Otto, buonasera. Buonasera. Senta, sì. Ho sentito che poco fa uno gli ha detto che ha perso un utente. No? Vabbè, pazienza. Facciamo, ma... i conti, perché io invece mi rimetto nella scia di seguirla, perché mi state diventando più simpatici, perché siete più umani. Ma la vita è fatta così, c'è chi va e c'è chi viene. Allora, però c'è un piccolo particolare, che quelli che vengono aumentano sempre di più, quelli che vanno ci sono pure, come al solito in tutte le cose. Ma fa parte della vita. Fa parte della vita. Voi siete d'aiuto nel bene e nel male. Sì. E allora? Beh, no, speriamo, allora, no, speriamo non solo quelli che soffrono di solitudine, altrimenti veramente. Vabbè, se uno sta al telefono, se uno sta a sentire la radio, sta solo perché c'è la moglie vicino, un bambino che parla, non vi segue. Beh, succede anche quello. Comunque, stronzate come fa Borghese, vabbè. Comunque, io quello che volevo dire, se ho fatto, ho 60 anni e riesco a capire in base a quale logica una persona può fare la bodyguard a Berlusconi, un'altra può parlare tipo il giornalista del Corriere, del Fatto. Ognuno parla in base a delle esigenze, che sono il cibo. Se a me mi va bene a parlare bene di Berlusconi perché lui mi dà dei soldi, io parlo bene di Berlusconi, a prescindere, la coscienza la può avere solo chi ha dei soldi. Chi ha dei soldi fa quello che vuole, né bene né male. Rendi quando ha copriatore, che poi da è andato copriatore perché voleva parlare con la Santa Scelta, noi sappiamo. Santa che si dice, comunque guardi, per me la follia di criticare come ha fatto Veltroni Renzi, perché è andato a parlare, ha preso un caffè con, non è che ha stretto un patto d'acciaio scritto col sangue con Briatore, hanno avuto un colloquio con Briatore, ha fatto un'intervista in cui ha elogiato Renzi, vabbè, Briatore fa il suo gioco, dice quello che pensa, no, magari non ha fatto nemmeno piacere a Renzi questa cosa qui, ma è normale, siamo nella normalità, non c'è nessun patto Briatore Renzi, non capisco le parole di Veltroni. Dai, mettiamo un grillo contro la Rai, dai, fuori la Rai è mia, e poi in coro quegli ebeti che sono là sotto che dicono buffoni, buffoni, eccetera eccetera. Dai, mettiamo fuori la Rai è mia, su. Tre minuti di diritto di cronaca, tre minuti, fuori. Hai fatti 10, fuori! Via, fuori! Non mi interessa! Non mi interessa, la Rai è la mia, non è la tua, è mia come la tua! Okay, fuori. astronauta Gagarin. Allora siamo con Corradino Mineo, senatore del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Si è autodefinito alla periferia del Partito Democratico o no? Alla periferia probabilmente, perché mi sto sbattendo in interessantissimi dibattiti da Modica a Verona, ecco, in questo senso alla periferia sicuramente, ma sarebbe bene che lo facesse Epifani o qualcuno più importante di me, un bel camper. Ma perché non vanno in giro? No, stanno un po' troppo a Roma, mi pare. Un po' troppo a Roma, eh. Vabbè, ma tanto ormai è poca roba, Marino ha vinto, a Roma devono stare, con Marino c'è da vincere il comune di Roma. Ma non stanno nella Roma di Marino, stanno nella Roma del Parlamento, del triangolo, diciamo, Parlamento, Governo, Quirinale, ecco, quella è la Roma. Senta, d'altra parte, se ci pensate, la sede del PD sta proprio in quel triangolo lì, Ah, non c'è dubbio. Senta, Mineo, ma allora, le leggo un sondaggio, così magari partecipa pure lei, quello fatto da Grillo, pare che si concluda domani, il microfono di legno innanzitutto. Qual è la rete televisiva più faziosa? Rai 1, e sono i giochetti che si fanno, sa, alle elementari, alle medie, queste cose qua. Qual è la rete televisiva più faziosa? Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7, Sky TG 24. Lei dove metterebbe la X? Ma l'ho già visto il sondaggio, quindi so che è la solita Rete 4 e poi mettono Rai 3. Ma insomma, purtroppo ho un rimpianto, perché se fossi ancora in Rai magari mi sarei guadagnato il microfono di legno, invece non posso. Ah, esatto. Ma scusi, io voglio capire una cosa, ma lei su questa lista qua cosa voterebbe? Ma non lo so, guarda, io penso che abbia ragione Grillo quando dice che la Rai è di tutti, solo che tutti devono rispettare quelli che ci lavorano dentro, e quali naturalmente fanno anche un lavoro difficile, facciamo tanti errori, ma fanno anche un lavoro difficile. Per esempio, quel tono con un povero operatore che credo sia precario, mandato lì da Grillo. Ora, io magari consiglierei a qualche direttore, se Grillo proprio non vuole venire, di non mandargli l'operatore, mandargli delle cortesi lettere di inviti a non a talk show, per carità, ma interviste faccia a faccia. E vediamo se viene o no, però insomma io non l'avrei cacciato l'operatore. Sì, d'accordo, ma perché lei dice che ha ragione Grillo? Scusi, su che cosa ha ragione Grillo? Perché la Rai è di tutti, questo è vero. Vabbè, ma quella è una frase così generica. No, non è importante, per me è importante. Io quando mi facevano le critiche, quelli lontanissimi dalla mia cultura, le consideravo con attenzione, perché pensavo in ogni momento che la Rai era anche loro e cercavo di rispettarli. Quindi io, perché lei pensa che in questo momento, lei pensa davvero, come dice Grillo, che il Movimento 5 Stelle sia boicottato dai maggiori programmi, che venga tenuto fuori, che si parli solo male, che si vadano a cercare solo i dissidenti per metterli in cattiva luce? Io credo che la cosa peggiore che gli abbiano fatto a Grillo è stato di esaltarlo, cioè di farne una specie di mito, quell'assalto mediatico di tutti i giornali e anche della Rai, ma non particolarmente della Rai, dopo il voto di febbraio. Quella è stata, lui è, insomma, è stato colpito da troppa benevolenza, non da critiche argute. Sarebbe stato meglio che criticassero, cioè lo hanno criticato poco in passato in realtà. No, avrebbero dovuto dialogare, come si fa, cioè naturalmente è difficile perché loro spesso non accettano l'intervista, ma io vi ricordo che alcuni Pizzarotti erano venuti e erano state anche interviste interessanti. Se le interviste si fanno bene, ma voi lo sapete, se le interviste si fanno bene, il politico, se è bravo, vince sempre, però il giornalista fa un buon servizio. Sì, però scusi, qui Mineo, la questione sembra un'altra. La questione sembra, da qualche giorno a questa parte, Grillo sembra quasi ossessionato dalla questione dei talk, dalla questione, ma non solo la Rai, ce l'ha anche con la 7, con Formigli, lo chiama addirittura Vermigli, dice che lavora per Cairo, eccetera. Ora, lei che è uno di quelli del Partito Democratico che ancora cerca qualche contatto con i 5 Stelle, non ha votato, comunque è contrario al governo di larga intesa, ha cercato a lungo un'intesa con i 5 Stelle. Che ne pensa di questa ossessione di Grillo per la televisione e per l'informazione? Grillo non ha l'ossessione per la televisione, Grillo ha in questo momento un problema politico difficile, perché il suo movimento è tre cose diverse: la rete che serve per reclutare, gli eletti che rappresentano realtà locali, anche importanti ma locali, e lui che rappresenta l'umore delle piazze come lo sente in questi suoi giorni. Tenere insieme queste cose è complicata. Per esempio oggi, molto garbatamente sul mio blog e su Twitter, notavo che hanno fatto come Lenin, si sono presentati alla Camera, al Senato, molti emendamenti identitari, no? In cui si potevano riconoscere, in cui potevano affermare con i loro iscritti la loro diversità, il loro interessarsi del piccolo imprenditore, allora, di essere anche di destra, e se ne sono votati da solo. Allora, lei diceva che bisogna usare il Parlamento come una tribuna, solo che di questi tempi se lo usi solo come una tribuna e non ti mescoli mai, magari decidendo tu come mescolarti, alla fine te la canti e te la suoni, la racconti solo ai tuoi, capisci? Questa è una critica garbata. Subito su Twitter nascono le polemiche, ma come si permette, siete morti, siete dei bastardi, dei giornalisti pennivendoli e tutto quanto. È una reazione primitiva ad una difficoltà politica grande, seria e anche da rispettare di questo movimento. Scusi un attimo, però io lei per esempio andrebbe da Floris? Io andrei da Floris, poi se vuole sapere che cosa penso di questi talk show in Italia, dico che non mi piacciono. Io preferisco di gran lunga l'intervista in cui il giornalista fa la seconda domanda, si prepara bene e non molla la presa, senza mettersi sullo stesso piano del politico. Penso anzi che se non usa il tu e se lo frequenta poco ha solo da guadagnare il giornalista. Però penso, mi piace questo, mentre il talk show è una sceneggiata, non lo so, per esempio Giovanni Floris è bravo, però quando magari a me mi interessa la cosa lui fa quella passeggiata e molla la presa, allora io mi sento, mi rimane un po' di amarezza. Poi ho visto i politici che si portano i loro uffici stampa dietro come delle figurine, ma allora li facciano parlare, oppure... Cioè, a me quella sceneggiata lì non mi è mai piaciuta, ecco, voglio dire, fra l'altro è l'unico paese dove si pretende di fare il talk show in par condicio, perché il talk show in genere è un genere, diciamo, giornalistico di pancia, in cui, che so io, stavo in America, si esprime tutta la rabbia, tutto l'odio per, insomma, un po' una grillata, tutto l'odio per la casta, Boston, per New York. Mentre da noi, siccome è strano, la televisione, se nell'epoca di Berlusconi ha sostituito i luoghi della politica, è un talk show che deve naturalmente parlare alle pance, ma in par condicio, mi pare un'ipocrisia tremenda. Scusi, esempio, lei a proposito di Rai, quando racconta, quando fa il dibattito mi interessa di meno, anche Santoro che è più bravo di tutti noi. No, ma è vero che quando fa il dibattito è un po' noioso, però qui andiamo nel campo della, come dire, dell'esegesi dei programmi televisivi. C'è la pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24. L'imperdibile Di Pietro in mezzo alle capre e ai maiali. La capra ce l'ha. Anche la capra c'ha più latte. Morto un coniglio. È morta la mamma 2 giorni fa. Però purtroppo i conigli sono molto delicati. Poi se li magna Di Pietro. Il coniglio ha una sua funzione. La gallina fa le uova. Il pollo ci si fa le fettine di pollo. Il coniglio si fa al forno. Beh, si può finire in tanti modi una propria carriera politica. In questo caso Di Pietro ha deciso di mostrarsi alle telecamere mentre prende in mano i maiali, eccetera, eccetera. Sono tornati i pianisti, intanto, non so se al Senato o alla Camera, credo al Senato, dove è Mineo. Giovanardi dice: non possiamo stare 3 ore seduti. Come non potete stare 3 ore seduti? Giovanardi, dovete stare seduti 3 ore a votare. E lui dice: no, non possiamo stare 3 ore seduti. È impossibile che una persona possa stare 3 ore seduta al suo posto, sempre senza allontanarsi di un metro. Quindi prego Scusate. Il Presidente, che nel momento in cui Scusate un attimo. Scusi, prego. Quando i segretari verificano. Prego. Prego. La presenza fisica, allora. Perché se c'è l'alzata di mano, mi scusi Presidente, se io alzo la mano qua o alzo la mano qua, scusi, no, scusi, viene verificata la mia presenza fisica, la contestazione è una contestazione. Senatore Giovanardi, la contestazione è una contestazione. Senatore Giovanardi, abbiamo compreso le sue giustificazioni. Beh, non abbiamo comprese tanto, Parenzo, perché in realtà cioè, una cosa è che uno si allontana e non vota, una cosa è che te vota un altro, è diversa la cosa, no? Non c'è nessuna cosa da comprendere. Cioè, infatti. Non c'è nulla da comprendere. Uno c'è solo da sanzionare molto duramente, peraltro. Beh, c'è da stare seduti, fermi, zitti, o non zitti, e votare. si è anche ben retribuiti. Adesso Mineo mi attaccherà perché ti sto dicendo, sto facendo un discorso populista. No, Mineo ci darà ragione, anti troppo demagogico. Però insomma, uno sta seduto quando deve stare seduto e vota, altrimenti se non vuole votare esce e non partecipa al voto. Bravo, bravo. Se non vuole votare esce e non partecipa al voto. Ma io la prenderei un po' come una farsa questa, che si deve fare per avere un po' di visibilità, perché tanto la votazione di oggi era una votazione talmente scontata che 50 voti in più o in meno non avrebbero cambiato niente. Vabbè, appunto. Che, mi chiedo che cosa faceva il pianista per evitare che il collega avesse un'assenza e gli togliessero, non so, 50 euro nella... può essere ma non lo so, ma mi pare penosa questa storia, una cosa incredibile. Anche diciamo il rigore, diciamo, da Torquemada dei grillini mi è sembrato un po' fuori luogo, non c'era bisogno di fare tutte queste... Però Mina, io ancora non ho capito se abbiamo fatto qualche minuto di disquisizione sulla televisione, io non ho capito se questa furia di Grillo contro i talk, contro alcuni personaggi eccetera, a lei fa schifo oppure no, cioè questo ma è il punto. Lo trovo un leader in difficoltà, e come tutti i leader in difficoltà se la prende con chi ha visibilità, è sempre stato così, quindi io non lo apprezzo questo tipo di discorso che fa. Se poi mi chiede che cosa penso della nostra informazione, direi che si potrebbe fare molto di meglio, ecco, questo me lo può concedere. Ma chi è che può fare meglio? Lei ha già detto che Floris non le piace per diversi motivi. No, vabbè. Ma Floris non è che non mi piace. Vabbè, non le piace, non c'è. Ha alcune caratteristiche, quella trasmissione, che dopo un po' mi stancano, posso dirlo. Preferisco l'intervista. Per esempio, Floris, quando fa l'intervista alla fine, l'ha fatta perché alcuni non si sono sottoposti al talk show, quello mi piace. Scusi, questo sondaggio fatto da un capo politico su con nomi e cognomi, Toti, Mimun, Mentana, Varetto e poi Del Debbio, D'Urso, Lerner, Floris, non è una porcheria? O un è una cosa inutile di cattivo gusto, sì. Perché non è che quello non è uno qualunque, non lo faccio io il sondaggio, qui alla Zanzara facciamo un sondaggio chi è il giornalista o il conduttore più fazioso, è un capo politico di un partito, diciamo, di un movimento che mette all'indice, non dico all'indice perché poi non bisogna nemmeno esagerare, però insomma mette dei nomi dicendo chi è quello più fazioso, e poi che ci facciamo dopo il sondaggio? Ma poi becchiamoli, vediamo quando non fa la seconda domanda, vediamo quando è corrivo. Ma sì, bisogna, perché, per esempio, perché se la piglia con l'Annunziata, oggi se l'è preso con l'Annunziata per sta storia dell'Eni, risentiamo un po' su sta storia dell'Eni l'Annunziata, no? Che dice Grillo contro l'Annunziata perché dice sponsorizzata da Leni perché ha fatto un convegno a 150.000 euro, a parte che beata lei si è preso in un convegno 150.000 euro, poi bisogna vedere se nella sua vita ha fatto dei favori professionali a Leni, ma lì uno dovrebbe andare a scavare. Allora dimostrami che è davvero alle dipendenze dell'Eni o dell'Enel, che diavolo era Leni? Sentiamo. Avete visto? Questa l'Annunziata che fa la grande giornalista era sulla busta paga dell'Eni fino a ieri, e l'Eni la pagava, sai come? E si fanno pagare alla luce del sole, e quando era direttrice lei del TG3, lei era sulla busta paga dell'Eni, e Scarroni nella sua relazione, quando un azionista dell'Eni gli chiede ma lei i soldi nostri degli azionisti a chi li dà? E lui dice abbiamo dato 150.000 euro per una performance teatrale alla signora Annunziata, per fare una rappresentazione a Milano in una pièce che si chiamava Cane Nero. Mineo, lei andrebbe a fare una pièce Cane Nero per 150.000 euro, posto che sia vero? Io ovviamente non ci penso proprio, anzi se Grillo vuole darmi una mano, non lo farà sicuramente. Invece di parlare delle diarie, parliamo dei doppi lavori del parlamentare. Secondo me, se uno ha l'onore di essere stato eletto, sicuro con una legge porcata, diciamo rappresentante del popolo, deve fare solo questo. Qua c'è un sacco di gente. No, però io le ho chiesto una cosa sull'Annunziata. Ha fatto bene, se è vero, a prendere dei soldi da lei? Io non ci sarei andato, dopodiché non credo che sia un crimine, e l'attacco mi pare strumentale. Più chiaro di così. Ma non è andata così. Come è andata? Non è andata così, cioè Lucia Annunziata ha contribuito a scrivere la sceneggiatura di una cosa che è stata rappresentata al Piccolo Teatro di Milano sul caso Mattei, quindi non bravo, è... allora evidentemente allora Grillo come al solito non sa un cazzo, non sa beh, bisogna cazzo. Vedere se ha preso dei soldi da Leni, sì o no, li ha presi? Ha fatto una consulenza per scrivere una sceneggiatura sul caso Mattei. Ha fatto una consulenza per scrivere una sceneggiatura sul caso Mattei. Però comunque Leni sempre, sempre Leni gli ha dato i soldi, cioè non è che gli ho dato capito, io i soldi. Però voglio dire, io sono per esempio che i parlamentari mi basterebbe questo, non facessero il doppio lavoro. Punto. Dopodiché, e anche i giornalisti della televisione pubblica non devono prendere i soldi di una grande azienda. Esatto, non ho preso, trovate, chiedo sfida a trovare un rimborso, una volta le coppe per una cosa, ero andato perché c'era Don Ciotti, mi volevano dare 3.000 euro, sì, li ho presi e gli ho detto li date a Don Ciotti, io non prendo soldi. Senta, Minzolini dove lo metterebbe lei, che pare che voglia tornare a sentito, no? A letto in questi giorni? Minzolini è un ottimo giornalista, lo era soprattutto prima dell'incontro con Berlusconi, vabbè, poi ha pagato dazio. Qual è il problema mio? Non ma vedo. Il giudice dice che deve essere reintegrato, pare. Ma questo è vero che effettivamente i giudici esagerano in questo modo, però se cioè, posso in che dirle, senso esagerano i giudici? Esagerano perché spesso diciamo intervengono troppo nei fatti interni delle aziende. Beh, lei non lo disse per Santoro, però. Devo dire però che per quanto riguarda Menzolini, no, ma arrivo. Per quanto riguarda Menzolini, sarebbe stato meglio che la RAI avesse avuto il coraggio di dire Menzolini non ci piace come direttore del TG1. Sì. Invece si sono inventati una scusa. Sì. Ora, francamente, spostare la gente con una scusa perché così Berlusconi non si arrabbia tanto, non è un atto di grande coraggio, c'è un'ipocrisia servile. Quello non c'è che dubbio. Ora la RAI paga. Ecco, quello non c'è dubbio. Dunque, secondo la legge, però Menzolini va reintegrato in teoria. Poi magari evidentemente sì, ragazzi, cioè se questi fanno guai, ma guarda che li fanno con tutti, cioè se i guai poi dobbiamo tirare fuori i soldi noi, questo è il punto. Sì, ma vuole sapere qual è la logica? La denunciamo anche sì, in questa RAI, sì, questa RAI di Gubitosi. Sì, qual è? È la tipica logica delle imprese private. Il manager sta lì per alcuni anni, sì, quindi siccome la giustizia è lenta, a pagare sarà la gestione successiva. Sì. Quindi chi se ne frega? Beh, cosa mi spiego? Bisogna dire che Minzolini l'ha cacciato la lei, non Gubitosi, comunque. No, ma dico, in generale questi, dice lei, in no, generale. Anche questi hanno questa logica perché a pagare è sempre la gestione successiva. Mi sì. Spiego, no, glielo dico con cognizione di causa perché mi faccio un esempio però. Se io volessi mi farei dare alla RAI un sacco di soldi, mi spiego? Ma lei si è dimessa alla fine o no? Io ho provato a dimettermi, ancora sono in aspettativa perché. Ma come, le diceva che si dimetteva subito, ancora si è dimesso? Io spiego subito, mi sono dimesso, l'ho chiesto. E loro mi hanno detto, e dico, va bene, non voglio nulla, mi pagate le ferie perché lavoravo come un pazzo, lo sanno tutti, non si può fare. E allora mi dicono, ma guarda, siccome l'esodo, l'incentivo lo diamo a tutti, chiedilo tu. Dico, io chiedo l'incentivo, ma se me ne sono andato io, non è possibile. Allora vi faccio una lettera in cui vi dico che mi dovreste pagare le ferie e non l'incentivo, ma se siccome più o meno il prezzo sarà lo stesso, se mi volete dare l'incentivo fate pure. Dopodiché non mi hanno risposto. Dopodiché io probabilmente, siccome non ho nessuna intenzione di fare causa alla RAI, anche se di soldi, ma perché potrebbe magari per la mia famiglia ne avrei bisogno. Ma in che senso per la sua famiglia avrebbe bisogno di soldi? Beh, insomma, voglio dire, mi farebbero comodo, no? A lei no? Un po' di soldi non le farebbero comodo? Ma sì, no? In generale. Cioè, voglio dire, posso dirle, se le fosse capitato come è capitato a me di lavorare per 6 anni, 12 ore al giorno, tutti i giorni. Ma che causa potresti fare alla RAI? Sabato e domenica ed essere stato, ora non entriamo nei dettagli, non frega niente agli spettatori, ed essere stato per questi 6 anni continuamente ostacolato, pesantemente ostacolato. Ah, mobbing. Insomma. Mi hanno negato tutto. Sì. No? Lei pensi che io chiedevo 2 dirigenti? Sì. Io sono molto contento per Monica ne ha avuti 8. Io però voglio capire una cosa, Mineo. Io chiedevo una persona in studio, a Radio 24, dopo di me ne hanno date 4. Però scusami, Corradino. Sono molto contento per Monica, però insomma, voglio dire. D'accordo, ma dunque la cosa è che tu non ti. La tecnica è quello che è. Non ti sei dimesso, però. Dal mio punto di vista, tale e quale la politica della legge. Perché non ti sei dimesso? Sovrapponibile a Lorenza Lei. Perché non ti sei dimesso? Io questo, perché non ho capito? No, io ho mandato una lettera di dimissione alla quale loro non mi hanno risposto e hanno fatto cadere il tempo. Ora cioè sei in aspettativa, sei formalmente in aspettativa? Purtroppo sì. Ma come purtroppo sì. Non si può manco dimettere la RAI, ma non è possibile. Voi volete vedere le carte? No, ma io... Ma no, ma che carte? No, che carte? Però è incredibile questa cosa qua. Cioè che uno è incredibile, assolutamente incredibile. C'è uno dice, tu hai annunciato Urbi e Torbi. Non si può neanche chiedere che ti paghino il lavoro, capisci? E la logica è, chi se ne frega? Tanto... Vabbè. Paga pantalone, sì. Cioè, tu, esatto. Capito, tu vuoi, scusa, per capire, tu vuoi i soldi delle ferie non godute, diciamo? Io ho detto non voglio nulla da voi perché me ne vado volontariamente. Volontariamente? L'unica questione, siccome quello lavoro effettivamente non risposto, pagatelo. Sì. Non possiamo. No, e la cosa si è arenata lì? No, la cosa no, non è che si è arenata lì. Prova, siccome diamo l'esodo a tutti, chiedi l'esodo e noi te lo diamo. Vabbè. Più o meno la cifra era uguale. Sì. Io, ma tu non, non puoi chiedere l'esodo se sei senatore. Io ti avevo dei dubbi, perché dico, come, io chiedo l'esodo, poi tu dici che me ne vado volontariamente e chiedo l'esodo. Io l'ho chiesto in un modo particolare, cioè dicendo che la mia cosa era un'altra, ma che se per loro questa era la risoluzione, andavo via subito. Non mi hanno più neanche risposto. Naturalmente ora risolverò in qualche modo il problema, ma insomma, voglio dire, la mia richiesta di andare via è stata fatta subito alla Rai, giorno stesso in cui ho deciso. Va bene, Corradino, niente. Grazie. Ciao. Ciao, presto, ciao, ciao. Dalle, buonasera. Sì, sono Giuseppe Cruciani, cercavo Don Ferdinando Bodon, grazie. Non risponde Don Ferdinando, come mai? Per te è tutto sempre facile, pure cucinare, che ci resto a fare insieme a te. È meglio lavorare, non voglio discutere. Matteo da Roma, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Tanti complimenti per la trasmissione, non vi scoraggiate intanto. Volevo fare ma un chi si scoraggia? Non mi scoraggio per niente. Infatti. Volevo fare un commento sul fatto di Giovanardi, sì. Un po' in generale anche per i politici che probabilmente condividono la sua lamentela del dover stare 3 ore seduti in un'aula di Parlamento, poverini, sedute sulle poltrone di velluto. Magari proviamoli a mandare una giornata a lavorare in fabbrica oppure in una fattoria a spalare il letame e vediamo in quanti secondi poi si mettono a piangere per reclamare il loro posto da parlamentare. Ma sì, ma come si fa a protestare perché uno deve stare 3 ore seduto? Dai, 3 ore seduto. Infatti, Matteo, grazie. Infatti. Salvo da Catania, buonasera. Salvo? Sì, buonasera. Dica. Niente, volevo intervenire sul discorso della faziosità di alcuni giornalisti. Cioè? Compreso voi. Perché compresi voi noi, sì. Certo, ma noi siamo faziosi, siamo faziosi dalle nostre idee, non c'è dubbio. Voi avete fatto ascoltare il discorso dell'olio di ricino per quanto riguarda la parlamentare 5 Stelle. Sì. E lei avete fatto abbiamo detto che lei dice che non si rivolgeva ai giornalisti. No, però altrettanto voi non avete fatto altrettanto, non ha fatto altrettanto con il discorso del Movimento 5 Stelle contro i senatori. Oggi, mi scusi l'affanno, per qual è il suo problema? Salvo, non capisco che problema. Noi facciamo sentire quello che ci pare, Salvo. Non abbiamo problemi. Perché non avete fatto ascoltare? Ma cosa? Contro oggi? I pianisti? Contro i pianisti? Contro i pianisti? Ma ho detto prima, ma veniamo. Scusi, ma abbiamo appena. Sono stati senatori del Movimento 5 Stelle. Ma lo ha detto anche Mineo prima. Sono stati senatori del Movimento 5 Stelle. Ma perché non l'ha detto? Ma Salvo, ma non mi rompa le scatole. Ma guardi, non ho problemi. Lei fa cattiva informazione. Poi per quanto ma voi siete malati. Voi siete malati. Ma voi siete malati, ma lei è malato, lei è malato. Lei è malato, quando lei accosta il Movimento 5 Stelle al fascismo, quando i due partiti amici nemici hanno votato quella legge degna dei peggiori regimi, che era la porcata della legge Fornero. La porcata che ora la legge Fornero è una legge che lei può contestare, ma non è una porcata, che vuol dire? È una porcata perché è degna e caro, qualche genio Salvo, se n'è accorto ieri, Salvo, qualche genio si è accorto ieri Salvo, che ma di cosa stiamo parlando? Scusa, di che stiamo parlando? Non ho capito. Di che stiamo parlando? Discorso che vuoi il guru, il nuovo fascismo, ma chi ha detto il nuovo fascismo? Io non ho detto nulla. Ma io non ho detto nulla del genere, lei inventa. Lei ha l'invenzione allo stato puro, io non ho detto nulla del genere. Niente, lei sta inventando tutto, io non ho mai parlato di fascismo. Il guru, si vada a risentire tutte le cose. Ha scoperchiato Grillo il vaso di Pandora e tutta la merda sta uscendo adesso. Fatevene una ragione, la merda sta uscendo adesso, da dove sta uscendo? Certo che sta uscendo. Da dove? Perché non ho sentito, anzi scusate, da parte vostra la stessa enfasi sul caso Sesto, sul caso Penati, sullo schifo dello scandalo in Lombardia con Formigoni, su un Parlamento italiano ma bloccato a decidere. Scusi un attimo, noi abbiamo semplicemente Salvo, noi abbiamo non fosse sì, la d'accordo. Di Mubarak. Ma e noi... poi quando arriva, lei deve quando stare arriva calmo, qualcuno, lei deve stare calmo, deve prendere una bella dose di bromuro, deve stare tranquilla, adesso arrivano delle persone che la mettono un attimo tranquilla. Il bromuro tranquillo. Se lo ficchi, vi faccio rima, se lo ficchi nel culo il bromuro, che cazzo dice? Stia il tranquillo, lei deve fare una bella cura. Non è un argomento. Non è un argomento. Lei senta, non ma lei sta mettendo insieme 40 cose diverse. Lei sta mettendo insieme 40 cose diverse. Assolutamente. Voi volete accostare Grillo a qualcosa? Ma che chi non, lo accosta? Ma di che sta parlando? Stiamo criticando i suoi attacchi furibondi di questi giorni contro la stampa, contro i giornalisti, contro il sistema, eccetera, eccetera. Io gli ho dato anche un consiglio, non glielo posso dare. Ho detto: se uno vuole attaccare la RAI, ci sono tanti argomenti per attaccare la RAI, ma non cacciare un operatore che sta là sotto, no. O è giusto cacciare quell'operatore, Salvo, lei che è un genio, un professore? Assolutamente, assolutamente. È giusto. Non è, se lei mi fa finire, ho detto non è giusto. Ma io quello stiamo, noi quello stiamo dicendo, non stiamo dicendo però, altro. Però associare tutto, noi siamo reduci da 20 anni di immobilismo in questo paese per lo schifo che c'è stato tra pseudo destra e pseudo sinistra, tutte le porcate. Quei geni del centro-sinistra di cui Parenzo va sempre vanto, perché in questi anni non hanno votato contro il conflitto di interessi quando avevano la possibilità di votarlo? E poi Salvo, ma va benissimo tutto quello che lei sta dicendo. Ma allora parlatene di più di queste cose, se no la gente, siccome qua abbiamo l'italiano, purtroppo ha memoria corta, non si ricorda più, già se lei parla di Lusi o di Penati o di Formigoni, la gente ormai parla, voi parlate invece delle cazzate di Grillo, l'esternazione di cose. Ma quando? Noi, ma scusi, Salvo, ma perché Grillo, lei ci deve dettare la linea di quello di cui dobbiamo parlare? Quando, non ho capito, quando, ma noi parliamo di quello che ci pare. Scusi, no, ma è una pretesa incredibile questa cosa qua. Quando cioè... il Movimento 5 Stelle aveva fatto metà delle porcate che hanno fatto in questi anni PD e PDL, e allora potete parlare, ma fino ad allora... Non possiamo parlare, silenzio, dobbiamo un religioso silenzio, ci sta lei. In religioso silenzio ci starà lei, ha capito o no? In religioso silenzio, ci sta lei, fascista. Marco da Torino. Come no? In religioso silenzio, questo imbecille. In religioso silenzio, dobbiamo stare in religioso silenzio fino a quando non so che cosa, fino a quando gli altri partiti. Ma io non sono il referente di nessun partito. Lui deve stare zitto. Deve stare zitto lui. Marco, dica. Devo dire che Salvo una cosa giusta l'ha detta, che gli italiani hanno la memoria corta e gli occhi coperti di fette di salame. Allora? Ma dove erano i giornalisti quando Grillo, che si dichiara anti-TAV, è sponsorizzato da Italo Treno, che è l'alta velocità? Ma perché i giornalisti non l'hanno sbugiardato? Chi quando... è sponsorizzato da chi, scusi? Italo Treno, il blog di chi? Grillo. Ma metteranno la pubblicità là, forse, non lo so, andiamo a vedere. Adesso non c'è, ma c'è Amazon. Ma Amazon non è una multinazionale e Grillo non è contro tutte le multinazionali. Beh, contro tutte le multinazionali no, anche questo è... Amazon ha avuto tutta una serie di inquisizioni per il lavoro minorile, per il lavoro in condizioni precarie. Cioè, questi sparano contro la TAV, ma avevano lo sponsor Grillo, lo sponsor Italo sul blog di Grillo. Glielo garantisco perché l'ho visto più di una volta. Amazon è costantemente sul blog di Grillo ed è una multinazionale. Non si ricorda dei video, perché sono stati censurati da YouTube, di quando Grillo spaccava i computer e diceva che Internet era il male del mondo. Ma non sono stati censurati, sono passati mille volte in televisione, su Marco, sono dai. Sono spariti. Però su questo bisogna dirlo che, secondo me, Grillo è un buffone da sbugiardare, e se devo votare un comico, voto Crozza, che mi fa più ridere. Almeno mi diverte di più. Però il problema è, certamente c'è stata una responsabilità del giornalismo italiano, che su queste cose Grillo non è stato attaccato. Ma su che cosa? Ma non è vero, è stato attaccato decine di volte, ma anche sull'incoerenza. Ma scusi, Marco, nell'informazione italiana c'è di tutto, c'è veramente di tutto, per cui gli attacchi a Grillo sull'incoerenza, prima ha detto quello, poi quell'altro, eccetera, io ne ho contati a decine, a centinaia. Domenico da Roma, buonasera. Oh, meno male, va, dopo la mezz'oretta di sti pistolotti. Allora, Mineo, cominciamo da Mineo. Sì. Mi sta bene che ha fatto sentire Mineo, sai perché? Perché? Intanto diamoci del lei, perché c'hai ragione, bisogna darsi del lei. Allora, dottor Cruciani, il signor Mineo signor Mineo, visto che è un privilegiato e adesso è diventato ultra privilegiato, perché il signor Mineo, tanto che fa le scarpe, che vuole fare le scarpe chissà chi, percepisce stipendi da paura, va bene? Adesso che è senatore, come tutti gli altri che stanno lì a riscaldare le sedie, va bene? Io ti dico una cosa, Cruciani, che te la ridica del tu, perché te la devo dare del tu, perché se no se capimo. La prima settimana di ottobre, a cavallo tra la fine di settembre e ottobre, sì, in questo paese ci sarà la rivoluzione. Sì, sicuro. E te lo dico, sì, te lo dico, lo sai perché? Sì, perché questa massa di, no, di cafoni, oltre a essere cafoni ignoranti, sono anche delle persone tipo Giovanardi che si mette a dire quelle stronzate, che la gente non ne può più di queste cazzate, perché la gente va a lavorare per 1.000 euro e 500 li deve dare allo Stato. Sì, dimmi, però lei sta mettendo insieme 40.000 cose, è partito da Mineo. Dire, che cosa l'ha fatta incazzare di quello che ha detto Mineo? Il fatto che dice ho bisogno di soldi per capito? La mia... A te pare normale una cosa del genere? No, non mi pare normale, effettivamente non mi pare normale. E allora ti garantisco... garantisco, adesso ritorniamo sul del no, ma non è un problema, ho superato questa fase del leo e del tu, caso Domenico, allora, non ci sarà nessuna rivoluzione dalla fine di settembre, inizio di ottobre. Allora, lo sai perché ci sarà? Perché? Lo sai perché? Perché esistono ancora dei poveri pensionati che danno un piatto di pasta a quelli che non gliela fanno arrivare alla fine del mese, che sarebbero i padri, sì caro Cruciani, che sarebbero i padri e i figli, i nipoti, eccetera eccetera, perché questo è un paese di buoni, è un paese di farlocchi, caro Cruciani. Sì, però lei sta mettendo insieme un sacco di cose confuse, non si capisce niente. Perché ci dovrebbe essere sta rivoluzione? Perché la gente sta male, vabbè, però questo è da tempo che la gente sta male, no? Vedrai quello che succede i primi di ottobre, una bella rivoluzione. Ma perché mi dici giusto... i primi di ottobre? Perché? Perché senti come suona bene, la rivoluzione di ottobre, senti. Vabbè, ma lei, Domenico, lei è un nostalgico. Io sono nostalgico, io sono avvelenato, non sono nostalgico. Amico mio, io le dico una cosa, che questi sono una massa di farabutti. Ma che mestiere fai tu, il tassista, che mestiere fai? Io purtroppo vado a lavorare la mattina e la sera e faccio che mestiere fai? Vuoi sapere il mestiere mio? Sì. Io lavoro dentro al cantiere. Sei io un... mi alzo che la fai? Un operaio? Fai un operaio? Faccio l'operaio, mi alzo alle 5:30 la mattina. L'operaio di cosa? L'operaio di cosa? Operaio edile. L'operaio edile. Parenzo, non hai nulla da dire, che cazzo stai facendo, Parenzo? Parenzo, perché ogni tanto tira la catena, se capisce dove sta. Intanto guarda che finisce pure per te, se no svegliate amico. Finisce pure per te, perché questa gente qui che sta comandando sta rovinando l'Italia. Ma questa gente chi? Fate attenzione. Ma questa gente chi? Ma come ti permetti? Come questa gente chi? Gli amici tuoi giornalisti. Ma quali amici tuoi giornalisti? Cominciando dall'annunziata che prendono fior di stipendi. Hai capito? Fior di stipendi, sì. Cerca di connettere. Cerca di connettere per cortesia anche il cervello. Perché domani mattina mi sono 6:30 andare a lavorare. Hai capito? Bello. E io sono arrivato a capo alle 7, che vuoi? La stampa che sta addosso a quel cristiano lì che si sta incassando a mezzo di piazze, che si chiama Grillo. Sì. Gli sta andando giù perché ci hanno paura. E io ti dico, dagli tempo un altro quarto d'ora a quello. A chi? A Grillo? A Grillo, dai un altro quarto d'ora. Ti garantisco, caro Cruciani, sì, che la rivoluzione... La rivoluzione d'ottobre è bellissima. Ma perché sei così scatenato? Intanto è con noi il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Buonasera. Sì, buonasera a voi. Come andiamo? Sempre buona in macchina? Padania. Sempre in macchina. Perché dici buona Padania a Tosi che non dice mai buona Padania? Mica è Borghezio. Che dice sempre buona Padania all'inizio voglio delle telefonate. Anche lui dice buona Padania. Senta Tosi, come andiamo dopo questa intervista di Bossi oggi a Repubblica? Era opportuna questa intervista oppure ha fatto una grande stronzata? Diciamo che... per usare un eufemismo era decisamente inopportuno. Lei consiglierebbe a Bossi di non fare interviste, diciamo di stare un po' zitto oppure no? Chiunque faccia parte del movimento politico normalmente quando fa delle uscite pubbliche, delle prese di posizione pubbliche, dovrebbe valutare che queste prese di posizione devono giovare alla causa del movimento dal quale si appartiene, altrimenti come meglio che faccia. Vabbè, danneggia il movimento. Evidentemente Bossi questa valutazione non la fa. Ma come mai? Perché se ne frega ormai del movimento, della Lega? Ma adesso non so perché lui abbia uscito con questa intervista intempestiva e estemporanea. L'unica cosa è che quando va bene questa intervista nuoce al movimento, quindi non... Non è stata una bella scelta. Tosi in Veneto porta via i voti alla Lega e fa accordi con i fascisti. Ma perché è fissato questi accordi con i fascisti? Cioè ormai è un refren. Vabbè, torniamo tra un attimo, dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Però Domenico deve restare, se ne va l'ammazzo. Non me moleste moschino. Entriamo con un po' di ritardo perché bisognerebbe inserire ogni tanto, cambiando l'oggetto della discussione, quella meravigliosa frase di Ferrara di qualche anno fa, caro Parenzo, te la ricordi? Sì. Sul traffico? Beh sì, sul traffico. Bisognerebbe cambiare il traffico con la borsa, basta una piccola inversione, adesso glielo facciamo fare a Giuliano, un giorno di questi, lo chiamo e gli dico scusa mi fai una cosa del genere, così la metto subito dopo. Però vi devo confessare una cosa. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca. Cioè, ammosciano proprio, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Fate qualcosa, vi prego. Strade in diretta. Vabbè. E poi a un certo punto si riprende e vabbè, ricominciamo. E ricominciamo pure noi, va. Dopo la borsa in diretta con Flavio Tosi, sindaco di Verona. Caro sindaco, però adesso qui non ci si può limitare a dire, come ha fatto lei, che vabbè, è un'intervista, come ha detto, inopportuna, come ha detto, intempestiva e inopportuna. Intempestiva e inopportuna, perché questo è una specie di comunicato, lui dice intervista intempestiva e inopportuna. Sì, però, siccome è la seconda in 3-4 giorni, ma che succede qui? Lui dice che si vuole riprendere la Lega. Quante possibilità ci sono che Bossi si riprenda la Lega? Mi dica lei, dallo 0 a, da 0 a 10, quante ce ne, da 0 a 100, quante ce ne sono? Da 0 a 100, beh, ovvio che questa è la mia opinione personale. Ah beh, certo, chiaro. Zero. Zero. E quante bugie ci sono in questa intervista a Repubblica? E quante? Bugie ci sono in questa intervista a Repubblica, tante? Quelle che attribuisce, le cose che attribuisce al sottoscritto, ovvero sia che ho fatto gli accordi con i fascisti o roba del genere, porto via i voti alla Lega, quella è, non è una bugia, diciamo che è una corbelleria, per usare un termine aulico. Mamma mia. Dunque su di lei corbellerie, insomma. Sì, ma, in generale anche su Maroni corbellerie, cioè il tradimento, eccetera, eccetera. Beh, quelle sono delle offese gratuite, direi. Offese, scusi? Offese gratuite. Offese gratuite. Ma scusi, secondo lei, in un altro periodo, un militante leghista che diceva certe cose sul segretario veniva cacciato dalla Lega, o comunque si metteva in discussione, si parlava anche della sua cacciata. Perché non ne parlate anche di Bossi? Cioè, se un semplice deputato se ne esce dicendo che Maroni è un traditore, è vero che Bossi è una figura oggettivamente diversa, però se uno se ne esce con un'intervista del genere, il giorno dopo viene cacciato, o sbaglio? Allora, diciamo che in una situazione normale, ovvero sia, diciamo che quando c'era Bossi segretario, normalmente le cose sarebbero andate esattamente come avete detto voi. Cioè, se qualcuno avesse detto al segretario federale quello che lui ha detto a Maroni, sarebbe stato irrimediabilmente espulso. E ciò detto, evidentemente Maroni ha un tale legame di affetto con Umberto Bossi per 30 anni di militanza e battaglia insieme, che non se la sente di prendere una decisione così pesante. Per cui le parole sono per un fatto affettivo. Sì, certo. Le parole sono effettivamente da espulsione in un partito normale, o sbaglio? No, ma ripeto, in Lega, quando è stato segretario Umberto per 20 anni, fosse successo questa cosa a parti invertite, chiunque avesse fatto una cosa del genere sarebbe stato espulso. Ma la domanda è questa, ci sta ancora con la testa secondo lei? Questa è una cosa che... Lo so che è pesante, No, ma non sta a me valutarlo, nel senso che non è mica... ognuno su questo fa le sue valutazioni e tira le sue conclusioni. Beh, no, ho capito, però io lo chiedo a lei, cioè nel senso, dopo aver letto questo... E io lo chiedo a lei. No, a me non lo può chiedere perché lo conosce meglio di me, Bossi. Sarebbe altro, chiedere lecito rispondere cortesia. Lo conosce meglio di me, Bossi. No, beh, insomma, non è che abbiamo grandi frequentazioni. Vero che sono più vicino io, che sono a Milano, quello è a Barretta Barese. Probabilmente frequenti di più lei, ma... Però il fatto stesso che lei non mi dice, no, questa qua è una cosa da escludere, sicuramente è lucido, cioè lei mette in dubbio il fatto che sia lucido? Ma che ne so, io magari, io stesso potrei avere un tumore e non so mica di averlo, che ne so, cioè non è che posso... Vabbè, questo è un altro discorso, però. Cioè... lo so, ma così evito di rispondere. Beh, lo so che lei evita di rispondere, perché però non mi dice nemmeno, no, guardi, è perfettamente lucido, è sicuramente una posizione politica, punto. Cioè, è una posizione politica o una follia? È questo che voglio capire da lei. Che... Ma infatti è quello, cioè, quando dicevo che Bossi sbaglia a dire dei fascisti, così un fascista, vabbè, sì. Perché io sono, quando mi metto nell'animo di non rispondere, sono molto democristiano. Ma lo so. E infatti non vi rispondo. Non ci risponde, dunque non ci dice nemmeno, cioè, perché la cosa è questa, o uno fa un'intervista o uno fa un'intervista politica, allora dice vabbè, un'intervista politica in cui Bossi ha detto quello che pensa, oppure vabbè, siamo nel campo della patologia, cioè della psichiatria, questo non vuole rispondere. Pronto? È caduta la linea? Adesso lo ripigliamo, eh. Parenzo, ci sei o no? No, certo, infatti volevo capire questo da lui proprio. Cioè, capire se questa estemporaneità, perché magari sì, è stata la moglie... C'è Eliseo da Roma intanto, Eliseo... Ma chi se ne frega di Eliseo? Ho capito, adesso ripigliamo la linea un attimo. Ma no, perché uno che insulta Eliseo, so già io. No, non insulta, sì, Eliseo, è una bravissima persona, Eliseo. No, vedrai che insulta. No, ma Eliseo è bravissimo, Eliseo. Mettigli Taormina che risponde. Pronto? Dica, Eliseo. Ma perché non ho capito, devo offendere, non ho capito, perché mi ha preso per un maleducato come lui? No, no, torniamo con Tosi, Elisa, un attimo. Eccolo qua, ma è caduta apposta la linea, È stato un sabotaggio. È un sabotaggio, lei non mi vuole rispondere. Forse, è una forze nemiche. È posizione politica o roba da psichiatria l'intervista? Mi risponda a questo. Cos'è? È roba da psichiatria o un'intervista politica, l'intervista a Bossi di Repubblica? Ma l'analisi è che comunque parte del presidente federale del movimento è un'intervista che fa del male al movimento. Non mi vuole rispondere. I motivi per i quali uno fa queste esternazioni. Io penso solo che uno potrebbe evitarsi. Ma i motivi quali sono? Ah, non lo so. Andate a chiederlo a Bossi quali sono i motivi, francamente. Faccio fatica a comprenderli anch'io. Senta un attimo, ma è vero che avete tagliato i viveri a Bossi? Anzi, partiamo da un'altra cosa. È vero che Bossi ha un appannaggio, compresa la scuola della moglie, di circa 800.000 euro l'anno? No, allora, a me non risulta, anzi, non c'è un appannaggio che non potrebbe esserci. Quello che è che ovviamente Bossi ha una scorta dell'assistenza delle persone che lo seguono, e queste sono rappresentano, che non è un appannaggio suo, è un costo reale sostenuto, che adesso non so quantificarvi di quante centinaia di migliaia di euro si tratti, ma comunque appunto sono una serie di persone che lo seguono e lo assistono e che quindi rappresentano un costo per il movimento. Ma perché il movimento si deve accollare i soldi, la spesa di persone che assistono Bossi? Scusi, no? Per curiosità. Ma perché probabilmente per i meriti che a lui ha nei confronti del movimento, perché al di là che adesso con questa intervista del bene al movimento non gliel'abbia fatto, però è quello che il movimento l'ha creato, l'ha inventato, l'ha fatto crescere, cioè noi oggi, il sottoscritto pure, abbiamo delle posizioni, lo dobbiamo a lui, quindi credo sia anche un fatto tutto per la riconoscenza del movimento nei suoi confronti. Ma è giusto dare 200.000 euro all'anno alla scuola della moglie? Questo non lo so, nel senso che non so se sia esattamente in questi termini la se questione. Fosse così sarebbe giusto o no? In questi termini, essendo soldi che sono prevalentemente denaro pubblico, perché di fatto è la gran parte del finanziamento pubblico, sì. Cioè, non sarebbe giusto. E invece, cioè, è giusto che abbia un minimo di assistenza pagato dal partito, ma se non sbaglio quello ci può stare, sì, anche, sì, no, ma anche secondo me ci può stare quella cosa là. Però la cosa che voglio capire è un'altra: è vero o no che si deciderà o è stato già deciso un taglio di questi diciamo di questo aiuto, di questi soldi? No, ma non è una questione nei confronti di chi assiste Umberto Bossi, è una questione di affrontare lucidamente la situazione. Il finanziamento pubblico ai partiti verrà o allullato o comunque fortemente ridimensionato. Giustamente, giustamente ridimensionato, perché prima era ampiamente sovradimensionato. Mm. Dunque è giusto tagliare, è giusto tagliare anche queste spese per Bossi. E quindi c'è, diventa, si fa di necessità virtù, bisogna comunque fare in modo che le spese indispensabili di funzionamento delle sedi o che sono la priorità per la vita del movimento, e si deve cercare di andare a limare o razionalizzare anche sulle spese per Bossi. Tutto, cioè anche le spese perché destinate alle varie. Ma lui dice che gli hanno tolto gli autisti. Sì, lui dice che gli hanno tolto gli autisti, le guardie del corpo, dice che possono mettere una bomba sotto casa sua, ma è vero che corre un pericolo, come dice lui, oppure è una follia anche questa? Questa è una valutazione che sta al Comitato Provinciale per la Sicurezza a Varese, ci sarà il prefetto. E chi gliel'ha tolte le guardie del corpo? Non è vero che gli hanno tolto le guardie del corpo allora? A me non risulta, io l'ho sempre vista, poi a me francamente non risulta, però ripeto, il livello di sicurezza di una persona, sì. Io ho la tutela viene stabilita non da Flavio Tosi, che sarebbe una follia, ma viene stabilita da un comitato presieduto dal prefetto, del quale fanno parte il comandante della polizia, e in questo caso il comandante dell'arma, e il responsabile è il comandante della Guardia di Finanza. Questo è un comitato che valuta il livello di rischio e di tutela. Ma lui si riferisce alla Lega, a qualche persona che voi pagavate, evidentemente, che è stata tolta. Ma siccome voi mi domandate che rischi corre, certo. Corre e l'eventuale assegnazione non lo decidete voi, certo, di una scorta. Lo deve decidere. Parenzo, ci sei? Sei sparito? Volevo chiedere da mezz'ora, volevo chiedere a Flavio Tosi questo. Saluto intanto il sindaco di Verona, lo abbraccio fortissimo. Ma le voglio chiedere, non è che dietro queste sparate di Bossi c'è la regia della moglie, che è un po' invidiosa perché è stato magari, no? Che la regia occulta di questa moglie, che siccome si è vista togliere anche i soldini alla scuola Bosina... No, non è detto questo, Come? L'hanno votato l'altro giorno nel bilancio federale, dicono, sai. No, l'ho letto, però... Non sai niente, non leggi i giornali, vabbè, sei tutto il giorno lì a lavorare al tuo programma alla Rai, non fai un cazzo tutto il giorno. allora... Tosi, c'è la responsabilità della moglie della signora Marrone o no? Un po' dietro, forse sì. Che ne so, io diciamo che c'è quella la saggezza popolare dice che in famiglia comandano sempre le donne, però la saggezza popolare dice questo. Vabbè, però si può estendere al caso Bossi la saggezza popolare, sono molto popolari, così. Noi della Lega crediamo molto nella saggezza popolare. Traffico, poi chiudiamo con Flavio Tosi che è in macchina, sindaco di Verona, sulla situazione incandescente nella Lega, sì, incandescente in realtà, perché poi c'è stato anche una piccola botta elettorale, dunque Bossi dice che adesso si vuole riprendere la Lega. Siamo qui col sindaco di Verona Flavio Tosi. Senta, ecco. Tosi, al di là della questione dei figli, su cui ogni tanto torna Bossi, ha letto che Renzo Bossi alleva maiali e capre e fa il formaggio, no? E asini. Ho letto. Vabbè, lei dice era meglio che lo faceva. Destino naturale. Era meglio che lo faceva prima. Il mio mestiere dell'agricoltore è un mestiere realmente nobile, importantissimo, sì. E quindi può darsi che Renzo Bossi abbia scoperto la sua vocazione. Vabbè, sì, ma probabilmente sì. Ma è più adatto a lui quel mestiere. Chissà. Ma allora, non so se è più adatto a lui, perché questo lo dimostrerà se fa il formaggio buono oppure no, oppure se le capre e le bestie stanno bene oppure no. Lo si vedrà, insomma, nel tempo, certo, si misura sui risultati. Comunque lei è stato molto chiaro. Se non glielo compro nessuno, allora vuol dire che ha sbagliato mestiere. Comunque mi sembra molto chiaro, lei ha detto le possibilità che Bossi ha di riprendersi il partito mi sembra che siano zero, mi sembra. Ma anche perché se andiamo a analizzare i flussi elettorali, sì. Allora la sconfitta della Lega, al di là del risultato di queste amministrative, vediamo i ballottaggi, perché ce ne sono parecchi, come siamo al ballottaggio. Il crollo elettorale avviene all'amministrativa dell'anno scorso. L'amministrativa dell'anno scorso è stato un disastro. Se lei dice non c'era ancora. E non c'erano né Maroni né Tosi, c'erano Bossi, Gobbo ed altri. E si è andati dopo ai congressi, dopo la stagione dopo quelle amministrative, e quel risultato catastrofico di quelle amministrative lo si deve a Belsito, Diamanti, Lingotti, Tanzani, eccetera. Quindi a persone vicine a Umberto Bossi che si sono comportate in un certo modo. Cioè dice il disastro della Lega, quello che dipinge Bossi in realtà è un disastro suo. È un disastro di persone vicine a lui che l'hanno determinato un anno e rotti fa. E adesso ne paghiamo ancora le conseguenze, perché è chiaro che abbiamo avuto un calo di credibilità per quelle vicende che ce lo trasciniamo ancora adesso, unito al fatto che adesso da noi la gente, e su questo Moroni sta lavorando con la Regione Lombardia insieme agli altri governatori, si aspetta dei risultati concreti in termini di federalismo. Dico di più, in termini di consenso, perché dopo bisognerebbe guardare uno realmente quanto consenso porta. Che Bossi ha dichiarato che io porto dei voti alla Lega. L'anno scorso, appunto, alle amministrative, la Lega a Verona ha preso l'11% in città, che è stata il capoluogo dove la Lega ha preso di più in assoluto, e la mia Civica, che ha preso il 37%, i voti non li ha presi appunto alla Lega, visto che ha fatto un ottimo risultato rispetto al resto, ma li ha portati via soprattutto al centro-sinistra e in particolar modo al